English Bit di Giulia Crivelli. Missed trust. Trump at 200 days, declining approval amid widespread mistrust. Trump al traguardo dei 200 giorni, gradimento in discesa e mancanza di fiducia sempre più diffusa. I network televisivi americani riassumevano così i dati degli ultimi sondaggi sulla presidenta Trump, entrato in carica alla fine di gennaio, che ha già appunto alle spalle i primi 200 giorni come inquilino della Casa Bianca dopo Barack Obama. La parola che ci interessa è mistrust. In italiano potremmo tradurre con la sensazione di non potersi fidare di qualcuno o di qualcosa. A climate of mistrust and fear, un clima di sfiducia e paura. She has a deep mistrust of strangers, ha molte remore nei confronti degli sconosciuti. Da mistrust viene l'aggettivo mistrustful. Some people are very mistrustful of computers. Alcune persone nutrono un certo scetticismo nei confronti dei computer. Esiste poi il verbo regolare to mistrust, mistrusted, mistrusted. Interessante, come sempre in inglese, l'utilizzo del prefisso miss, che dà origine a molte altre parole. Una che usiamo tanto anche noi è misunderstanding, fraintendimento. There must have been a misunderstanding. I thought I had ordered a much smaller model. Non ci siamo capiti, evidentemente. Credevo di aver ordinato un modello molto più piccolo. Misuse indica l'uso scorretto. There are individuals who misuse power for their own ends. Ci sono persone che usano in modo scorretto il potere per loro scopi personali. Mistreat significa trattare male o in modo disonesto persone o esseri viventi. Most people now condemn the mistreatment of animals. La maggior parte della gente oggi condanna chi si comporta male con gli animali. Misjudge si riferisce a un errore di giudizio. He misjudged the distance and the ball landed too far. Valutò male la distanza e la palla atterrò troppo lontano. Ma notiamo anche il suffisso full, che crea un aggettivo a partire in genere da un sostantivo, e poiché deriva da full, pieno, anche se nella forma scritta perde una L, indica l'unione di tanti tratti di un certo tipo. Beautiful viene da beauty, vuol dire bellissimo o letteralmente pieno di bellezza. Sorrowful significa molto sofferente, da sorrow, dolore. Mindful, molto consapevole. E come ormai sappiamo tutti, mindfulness, quasi una moderna filosofia, vuol dire massima consapevolezza.